Uh-huh. And then this will be... Yeah, I know. As a Soviet... Soviet frogs. Do you have anything to add to this? Tutto bellissimo, un posto spettacolare. I love it. Bella, porco Dio, come va? Come stai? I love this guy so much. Cos'è, per cambiare tracce? But now I have to hold it, so can you hold it? Ma tu ci cazzo fai nella vita, fra? It's a radio. Ma c'è una rana drogata, che sei? Ah, okay. Can you hold it for me? Mamma mia, che stick. You can talk, you want to hear? Sounds. Sentire freddo. Prova, prova. Parla. Porco Dio, qua, che si fa? Beh? Careful, with the screen, ci cazzo vuoi fare? No, no, è la vita. Sto amplificando suono. Scusa, perché è nuova, c'è il tuo. Che senti quello che parli dalle cuffie. Ma mi senti? Io porco, prova. Prova. Ma il porco è sempre di ritorno qui. Stupendo, bellissimo. Mi piace. Sotto la panca la capra e non si sa che fa, o crepo canto. Bello, mi piace. I have the same. Yeah, 100 euros, but it's a bit heavy. The best one, no. It's a nice heavy. This type is the best one for me. Really, I don't know for the charge. It's really good because no, I can hear. Yeah? Hey, but you were making a boring radio now. Sì, adesso andremo a bere un po' di whisky sour made in Italy. Bastardi. Che c'è la radio? Bastardi. Oh, di qualcosa alla radio, Gianni, siamo online, c'è sta intervista. Siamo online, siamo qua, online. Ma stiamo online o no? Bella gente e belle vibes. Siamo sempre bella strada, mentre tu stai online. I started on the left, and I ended on the right. camper. I have camper too, I bought it here in there. Yeah, I like. Yeah, best way. Also, when I go back in Italy, like as a tourist, I go back with the bar, you know? I don't sleep with my parents' house, I just, yeah, go there, I can eat food, and then I go sleep with the bar. Yeah, exactly, on the beach, I go. Guarda che arriva! Siamo arrivati in Malesia, so che siamo stati due giorni in Malesia, siamo stati una settimana, quasi una settimana e mezza a Phuket, perché c'era Alex che era a vedere un amico, anche nella natura, ciao, ciao. Sto parlando un secondino con lei. Vai, tranqui. Sì, più che altro volevo sapere se tu avevi lasciato così da qualche parte, perché c'è una felpa in più e la busta va a sopportare. Era qua, era proprio qua, l'ho vista per un secondo fa. Dai, mo se la vedo glielo chiedo se mi fa sì, perché fa lo studio l'ho fatto tutto e io voglio lasciare la felpa perché sono venuta con questo, sono arrivata no, sudore sì, anch'io guarda mo l'ho rimesso, però c'ho una felpa per dopo perché io qua cioè so che sono freddolosa, guarda c'ho così felpani che sto sudando adesso no, ma so che almeno la dormo con queste robe. Bravo, vabbè dai arrivo subito, se la vedi è brutta. Ciao. Vieni su. Bien, bien, bien. Vamos a hablar español aquí. Hola. Un poquito de todos. Un poco de italiano. Ándale, ándale. ¿Dónde? ¿De dónde? Dice. What do you want to say? What do you want to say? I don't want to say nothing. No, no more, no more, no more. No, no comment, more, no comment. I speak with Mimi. Smart dog. What is your language? Español. Radio Rana. Radio Rana. Radio Rana me gusta. Super. Il est à terre, papa, maintenant il fait de la nourriture.